con Valerio Pontrandolfo, sax tenore, direttore artistico della Kermesse to be in Jazz. A quale edizione siamo già arrivati? Alla sesta. Sì, di solito durante tutti questi anni ho cercato di, come filo conduttore, di mantenere, diciamo, viva la tradizione del jazz anni 40, 50, 60, se vogliamo dare un'etichetta. Però poi, come capita sempre, ogni edizione poi può avere le sue particolarità. Quest'anno, a parte Jesse Davis e Robert Bonisolo, il giovedì 6 e sabato 8, come, diciamo, concerto un po' più, non so, eterogeneo, appunto, come dicevi, c'è questo duo di brave cantanti, Asma D'Alenas, di Cristina Renzetti e Tati Valle. Piazza Renzo, e voglio anche ricordare che in caso di pioggia, non si sa mai, i concerti si tengono ugualmente sotto il voltone del Podestà, location altrettanto bella, e noi con queste iniziative cerchiamo di mantenere questa tradizione. Un tuo sogno che puoi realizzare per il To Be in Jazz, cosa vorresti realizzare, così, una bacchetta magica che improvvisamente ti appare tra le mani? Oddio, guarda, devo dire, sono abbastanza soddisfatto, tenendo conto del fatto che non so quante manifestazioni in giro, sia a Bologna che fuori, non hanno nessun contributo dal comune, e quindi con quello che abbiamo facciamo già, secondo me, abbastanza. È chiaro che se qualcuno poi dovesse intervenire e si potesse allargare magari un po' più di attenzione, quello sì, però a quanto pare si comincia giovedì 6 settembre con Jesse Davis. Ce ne vuoi parlare? Grandissimo Jesse Davis, è stato qui ospite già o due o tre anni fa, non ricordo bene, sax contralto e niente, uno dei migliori, si può dire, in circolazione da tanti anni. Curiosità, è stato anche protagonista del film famoso di Robert Altman, Kansas City, ma al di là di questo è bravissimo. Si presenta con Nico Menci al pianoforte, Stefano Segni al contrabbasso e Nicola Gerucci alla batteria. Bene, una formazione di italiani di tutto rispetto. È bello mettere assieme anche giovani e queste importanti figure. Sempre si cerca di farlo, perché sì, come hai detto tu, abbiamo musicisti qui bravissimi, quindi perché no, non valorizzarli. Bene, complimenti. Grazie a voi.